La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Eccoci qua puntuali come ogni sabato a raccontarvi tutto il cinema che c'è qui su Radio 24. Un saluto da Franco D'Assisi. La rosa purpurea vi porta dentro il grande schermo. Molto molto ricco di questo fine settimana, 14 nuovi film nelle sale, si sente che sta arrivando il Natale, sta arrivando l'altissima stagione del cinema e si cominciano a sparare alcune cartucce importanti. Di questo parleremo, abbiamo selezionato una bella cinquina, anzi forse sestina di film, vediamo se ci stiamo dentro con i nostri tempi per darvi più consigli possibili e poi per giocare insieme come sempre col film misterioso, sperando che questa volta siate un po' più bravi della settimana scorsa quando non avete indovinato il nostro film misterioso. Ne parleremo nel corso della trasmissione e poi ci sarà spazio per ascoltare una grande regista italiana come Roberta Torre, che arriva in sala con un film veramente pazzesco sotto tutti i profili, Riccardo va all'inferno, con un grande Massimo Ranieri. E ancora ci sarà spazio per capire cosa vedere nelle visioni domestiche, nei film, i film da recuperare, da vedere in casa sul piccolo schermo. E allora, cominciamo con quello che è sicuramente il film per il botteghino più importante della settimana, uno dei più attesi di questo periodo, una delle famose cartucce natalizie che cominciano ad arrivare verso il cinema, nei cinema, sui grandi schermi. Stiamo parlando di Assassinio sull'Oriente Express, da quel dì in cui Agatha Christie scrisse il libro. Tante sono state le versioni cinematografiche, questa che è ricca di grandi nomi e in regia Kenneth Branagh e in un cast davvero sterminato, l'abbiamo fatta raccontare alla nostra Chiara Pizzimenti. Ha un suo fascino un groviglio di estranei costretti insieme per giorni con nulla in comune, a parte il bisogno di recarsi da un luogo ad un altro, che non si rivedranno mai più. Qualcosa in comune gli estranei lo trovano e non è tanto l'omicidio quanto l'indagine per risolverlo. È un giallo deduttivo che si monta o si smonta a seconda del lato da cui lo si guarda, quello che è ambientato sull'Orient Express, il treno fra Istanbul e la Francia. Buon Dio, un assassino qui. Pace all'anima sua. Qualcuno frugava nella mia cabina nel cuore della notte, nessuno mi ha dato ascolto. Se c'è stato un assassino. Che succede? Allora c'è un assassino. L'assassino è tra noi e ognuno di voi è sospettato. E lei chi è? Mi chiamo Hercule Poirot e sono probabilmente il migliore investigatore al mondo. Uno dei cast più divistici della storia del cinema. Così il Morandini definisce il gruppo di attori del film del 1974, diretto da Sidney Lumet. È vero, c'erano Lauren Bacall e Ingrid Bergman, Sean Connery e Vanessa Redgrave, solo per citarne alcuni. A fare le indagini, nei panni di Hercule Poirot, c'era Albert Finney, nel ruolo che qui è di Kenneth Branagh, anche regista. Con lui ci sono Judi Dench, Willem Dafoe, Michelle Pfeiffer, Johnny Depp, Penelope Cruz, sempre per citare solo alcune delle star del vagone in cui è avvenuto il delitto. Non serve raccontare la storia, la sa chi ha letto il libro o visto il film, o uno degli adattamenti TV, e non la si può rovinare con anticipazioni a chi è vergine del romanzo del 1934 di Agatha Christie, che è già lui stesso una sceneggiatura. L'errore allora è aggiungere troppo, oltre a quello che già il grande schermo mette di suo sull'impalcatura del romanzo. Un passeggero è deceduto, è stato ucciso. L'assassino si trova con noi su questo treno. E tutti voi siete dei sospettati. Perciò catturiamo l'assassino. Il bello di questo film sta nel gusto del classico, del viaggio in treno, dell'omicidio, delle carrozze bloccate dalla neve che dà il tempo per l'indagine. Branagh non ha paura di confrontarsi con Shakespeare, figurarsi con Agatha Christie. Ci aggiunge un prologo per presentare Poirot, che risolve un giallo a Gerusalemme, e un finale un po' filosofico e qualche tentativo di troppo di uscire dal treno, anche con inquadrature avventate. Il meglio sta nelle prove degli attori, in mezzo, e nella tradizione di cui è ammantato il film, girato in 65 mm per avere il massimo della definizione. Era un film d'attori il precedente, non poteva non esserlo questo, compresi i calambur linguistici, visto che ci sono spagnoli, inglesi, americani e francesi, finti tali. Il dubbio è se servisse fare un film nuovo. Certamente farlo conoscere a una nuova generazione è utile, esserci riusciti è da valutare. Giusta la polemica sulla canzone scelta per accompagnare il trailer, la sentite in sottofondo e dell'Orient Express non ha niente. L'assassino sull'Oriente Express, raccontato da Chiara Pizzimenti, ha cominciato subito bene il suo percorso in sala, il film più visto nella prima giornata di programmazione, davanti a Smetto quando voglio, Ad Honorem, di cui parleremo esattamente fra pochi istanti, dopo la viabilità, fra poco. La rosa purpurea. Banda, che bello rivedervi. L'ideale sarebbe stato non rivedervi nudi, però questo è l'unico posto, purtroppo, dove possiamo eludere il divieto del magistrato. Abbiamo poco tempo, quindi vado subito al punto. Pietro, abbi pazienza, ma ogni quanto ci dobbiamo sorbire questo discorso motivazionale? Sì, lo so. Le cose non sono andate esattamente come ci aspettavamo. Direi proprio di no. Dovevamo avere la fedina penale pulita, invece guarda dove siamo, eh. Guarda dove stiamo, Smetto quando voglio, Ad Honorem, terzo e ultimo capitolo di questa saga tutta italiana su questa banda di cervelli così un po' particolari, con impegni e ambizioni molto molto particolari. Un film, si è detto, una saga su un precariato italiano che deve in qualche modo arrangiarsi, e quelli della banda di Smetto quando voglio si arrangiano, come dire, con la loro intelligenza, che mettono al servizio, insomma, di ciò che è più utile alla loro causa. In questo caso, un anno dopo la banda, appunto, è stata colta in flagranza di reato è stata arrestata e buttata in carceri diverse, così non si possono parlare fra di loro, ma visto che c'è un pazzo che sta cercando di sintetizzare il gas nervino, qualcuno pensa che tutto sommato la banda, come avete sentito, dovrebbe rimettersi insieme. Boris Sollazzo in collegamento con noi, ciao Boris. Franco, anche noi siamo una banda, in fondo. Siamo in fondo, sì, anche noi è abbastanza particolare, devo dire, tutto sommato. Sì. No, ci hanno messo in città diverse apposta. Apposta, perché noi non ci si possa sentire. Detto questo, però volevo parlarti di Smetto quando voglio, perché è stata una saga, come dire, molto particolare, perché ha incrociato molto bene lo stato dell'arte del nostro paese, di quello che è il problema più grosso del nostro paese, il futuro di generazioni che hanno studiato tanto e poi si ritrovano un po' a guardare fuori dall'oblò e annoiarsi un po' probabilmente, e invece quello che è un cinema d'azione divertente, una commedia d'azione, potremmo dire. Ecco, tra l'altro con delle dinamiche produttive molto interessanti, perché questo ultimo capitolo è stato girato insieme praticamente al secondo, e questo ricorda molto anche certe dinamiche del cinema americano. Allora ti chiedo un po' di darci una valutazione su quello che è questo gran finale. Intanto è un gran finale, e che cosa aggiunge, cosa toglie, cosa dice di più di questo racconto che è durato ben tre film? Intanto sicuramente è un gran finale, talmente gran finale da in qualche modo valorizzare anche il secondo, che era un oggetto più spurio rispetto agli altri due, con i suoi 118 minuti, il suo essere action con sfumature di commedia, mentre qui, nonostante siamo in presenza di un disaster movie, visto che c'è un attentato, tra l'altro in un obiettivo molto sensibile di Roma, c'è anche più commedia, ci sono anche più gag, non come nella prima, che era una commedia tout court, ma comunque sicuramente più che in masterclass. Ricordavi tu la dinamica produttiva per intenderci è la stessa che Zemeckis porta avanti per Ritorno al Futuro, o che i Wachowski, o le Wachowski, quelle che sarebbero diventate poi le Wachowski, hanno fatto per Matrix, cioè secondo, terzo capitolo girati insieme come se fossero un unico film e poi montati in modo da essere due, tanto che questo, Smetto quando voglio, Ad Honorem, che forse cinematograficamente è il migliore, ha l'unico difetto inevitabile nei primi 20 minuti, in cui si preoccupa giustamente di rendere edotti anche quelli che non saranno dei fan, che magari non hanno visto i primi due capitoli, in modo che possano vederselo anche autonomamente. In questo senso è un esperimento industriale e produttivo molto interessante, che però non va a inficiare il valore artistico e il valore di intrattenimento, grazie a diverse cose. Intanto, appunto, si ride, è divertente, rimane comunque il substrato di commedia, c'è una preparazione tecnica sia a livello di riprese sia proprio a livello di effetti speciali molto molto interessante, un montaggio che è forse al suo meglio dei tre capitoli, e due cattivi, diciamo uno finto e uno vero, che danno secondo me una marcia in più a questo Smetto quando voglio d'onore, ma perché c'è un Neri Marco Re che dopo essere comparso alla fine del primo, il famoso Ermurena, in una veste molto stereotipata di cattivo, torna e in qualche modo si svela nel suo essere tridimensionale, e dall'altra parte Luigi Lo Cascio che, pur avendo ottime motivazioni, perché ricordiamo da quando insomma è arrivata la Marvel non solo i supereroi hanno super problemi, ma i super cattivi ne hanno ancora di più, è un cattivo ferocissimo, cinico, estremamente credibile, ma anche con una storia molto importante. Non vi anticipo nulla del finale, ma nel finale c'è anche un aspetto di contenuto quasi politico che rende secondo me il film eccezionale a livello di messaggio, come appunto lo era il primo. E la forza di Smetto quando voglio ad onore è proprio questa: riuscire ad essere la sintesi nobile di alto profilo dei primi due capitoli. Questo è forse la cosa più forte, e quindi assolutamente promosso, e un po' quasi dispiace che sia finito questo franchise. Ragazzi, lui è Fefè. Giulio, mi sa che Fefè è morto. Da mo' che è morto Fefè? È un cadavere imbalsamato che si usa al primo anno d'anatomia. Fefè è una specie di mascotte da queste parti. Ragazzi, ma non dovevamo prendere dell'idrossido di sodio? Ma Fefè è pieno di idrossido di sodio. È la base dell'imbalsamazione. Ma come si estrae l'idrossido di sodio da Fefè? Lo apriamo e lo prendiamo. In che senso lo apriamo e lo prendiamo? Non è mica una scatoletta di tonno. Smetto quando voglio, ad honorem di Sidney Sibilia, con un cast che va da Edoardo Leo a Libero De Rienzo a Pietro Sermonti, eccetera, eccetera. Insomma, il cast che ha fatto conoscere questa saga tutta italiana. A questo punto noi cominciamo a giocare, sperando, come dicevo in apertura, che siate più sul pezzo della volta scorsa. La volta scorsa siamo stati cattivelli, era un film non facilissimo, e vedremo più tardi di cosa si trattava. Stavolta siamo un po' più nei nostri tempi, più attaccati a questa stagione cinematografica con questo film. Ci sono momenti in cui è necessario abbandonare la nostra umanità per salvare l'umanità. Tutta la storia dell'umanità ci ha condotto qui. Ecco, e cosa mette in pericolo l'umanità, come dice questa clip? Se avete già indovinato il titolo del film, scrivetecelo alla Rosa Purpurea, @radio24.it, con il vostro indirizzo, perché ci sono due Blu-ray di questo film che vi aspettano, ma più tardi vi facciamo ascoltare un'altra traccia. E allora, questo il nostro game, spazio a un altro film. Trasferiamoci nelle zone del cinema d'autore con un nome che è una garanzia solitamente per questa tipologia di cinema, lo è stato soprattutto nei primi anni della sua carriera, Michel Haneke con Isabelle Huppert, Mathieu Kassovitz e Jean-Louis Trintignant per Happy End. Come va, signore? Come deve andare? Sono prigioniero di questa fottuta sedia a rotelle. Se lei mi procura una pistola e delle munizioni, non se ne pentirà. Quanti anni hai? 13. Pensi di restare? Papà, sua madre è in ospedale, te l'ho già detto due volte. Scusami, sono rimbambito, lo so. Mi dispiace. No, ma è già passato, è tutto ok, scusami. Allora, avete sentito alcune highlight, diciamo così, da questo film di Michel Haneke, che è la storia di una famiglia dell'altissima borghesia di Calais, siamo in Francia, che ormai è diventata la patria putativa, diciamo, di Haneke, padre sulla sedia a rotelle, fondatore di una grande azienda, ora guidata dalla figlia, un nipote che litiga sempre con la figlia, appunto, problemi matrimoniali, c'è dentro un po' di tutto, c'è il fascino discreto dell'alta borghesia, potremmo dire, discreto e anche un po' da rottamare come tipo di concetto, in quella che è un'idea quella di Anne, che è sicuramente non nuova, però quella di far risaltare soprattutto le contraddizioni di questo ceto sociale, l'ipocrisia. C'è una scena straordinaria che non vi anticipo ovviamente, ma che dice tutto di questa ipocrisia, di questo parlare in un modo dall'alto al basso e poi magari di avere qualche riluttanza in più quando quel parlare deve diventare azione. Michel Haneke aveva Nel precedente film raccontato il ritratto di interni di una anziana coppia, lo ricorderete, Amour, di un'anziana coppia che si avvicinava alla fine dei propri giorni. Adesso invece la sua telecamera si sposta al di fuori per raccontare invece il malessere di un centro sociale che sembra dire a Haneke che non ha più nulla da dare, non ha più nulla da raccontare, non sa più come stare al mondo, in un certo senso. Boris, Happy End è un film, a mio modo di vedere, non riuscito, non è l'Haneke migliore, però pieno di scintille di cinema. Leggi appunto una delle scene finali, e anche qui non vogliamo spoilerare troppo, ma insomma, diciamo la scena del nonno e del nipote che si avvicinano in un momento veramente molto drammatico. Ecco, ci sono tante scintille di cinema che però mi sembra un Haneke un po' stanco, non riesca più a tenere insieme con la maestria che gli abbiamo conosciuto in tanti film del passato. È una fotografia perfetta, questo perché, intendiamoci, anche quando Haneke fa un film non riuscito, è un film interessantissimo, potente, con alcuni momenti di cinema davvero importanti, sia a livello visivo sia a livello narrativo. Sembra essersi rattrappito Haneke, perché in qualche modo in passato, non dico solo Funny Games, ma anche quello che è venuto dopo, lui aveva la presunzione di guardare il mondo, di riuscire a costruire all'interno sempre magari di nuclei familiari o di amicizie o di relazioni sentimentali qualcosa che fosse universale e che andasse oltre il cinismo, la rabbia, anche la violenza, appunto, di Funny Games, che poteva sembrare il film più nichilista del mondo e che comunque aveva uno spessore. In vecchiaia, dal Nastro Bianco in poi, e in particolare con Amour e adesso con Happy End, Haneke invece sostanzialmente racconta l'annullamento di ogni speranza, e raccontando l'annullamento di ogni speranza, raccontando il vero nichilismo, il vero cinismo, si fa influenzare anche per quanto riguarda l'aspetto visivo. È brillante la figura di Yves, che appunto ha questo cellulare con cui riprende il mondo pur avendo altri mezzi per interpretarlo, e la piattezza di quella immagine è un po' forse la piattezza che ci restituisce anche il livello di passioni annichilito e assopito di Haneke stesso. Hai ragione, costantemente mentre guardi il film, anche nei momenti migliori, anche quando ti stupisce, quando ci sono perlomeno un paio di scene che davvero valgono il prezzo del biglietto, tu ti rendi conto che però a livello di struttura, di costruzione, di scrittura e visiva, è come se si fosse stancato, è come se finisse per fare sempre lo stesso film. In fondo qui c'è lo stesso diciamo funereo, la stessa funerea atmosfera che c'era in Amour, in cui la vecchiaia, in cui un certo tipo di alta borghesia si arrende, e con lei finisce per arrendersi anche un maestro come Haneke. Rimane un film molto interessante, ma tutto è fuorché un happy end, e noi lo speriamo, insomma, speriamo che si riprenda e che trovi, insomma, un finale migliore alla sua carriera, anzi siamo sicuri che ne farà tanti altri. E questo per quanto riguarda Happy End di Michael Haneke. Allora, regia, poi fra poco Di Nuovo Insieme, nella terza parte torniamo al cinema italiano, con noi ci sarà Roberta Torre per raccontarcelo, il rutilante, direi in un certo senso, coloratissimo e luminosissimo Riccardo va all'inferno, dove Massimo Ranieri si cimenta con uno Shakespeare davvero particolare. Fra poco. Assenti, ma a loro modo presenti, impegnatissimi, ma che poi si impegnano ad esserci. Attenti, ma tanto distratti, volenterosi, ma un po' impacciati, autorevoli, ma anche giocherelloni. Federico, guarda che c'è una parola che riassume tutto questo. È padri. Ed è proprio di padri e ai padri che parleremo, per dare qualità al tempo passato con i figli, quindi anche al nostro. Padri casalinghi e padri incasinati, padri modello e padri single, padri separati, padri indaffarati, padri in pace con loro stessi, perché non ci sono né padri perfetti e né padri imperfetti. Padri Eterni di Matteo Bussola e Federico Taddia, la domenica alle 11 su Radio 24. Matteo, e le mamme? Beh, per fortuna che ci sono. La rosa purpurea. Qualcosa che spanda paura e dolore, e ancora paura. sentire a casa. Le parole di questo brano tratto da Riccardo Vallinferno, Massimo Ranieri, uno straordinario Massimo Ranieri che canta, che recita, un ruolo travisato con una faccia quasi irriconoscibile. Tutto questo è colpa, anzi merito, per non scherzare, di Roberta Torre, che è in collegamento con noi. Ciao Roberta! Ciao! Hai conciato un Massimo Ranieri come non se l'ha mai visto, eh? L'ho conciato per te. Mamma mia! Riccardo Vallinferno, Massimo Ranieri, Sonia Bergamasco, Silvia Gallerano, Ivan Franek, un cast di grande livello per un musical, un vero e proprio musical, perché la storia procede, oltre che coi dialoghi, anche con tante canzoni che sono proprio importanti per seguire la storia raccontata dal film, che è una storia, direi, archetipa in un certo senso. Qui c'è Shakespeare alle spalle, c'è qualcosa che per tutta la storia del cinema di fatto ha avuto in qualche modo delle versioni cinematografiche. Questa è una delle più originali, senza ombra di dubbio, e anche perché tu porti di fatto il Riccardo III dentro Suburra, dentro Roma capitale. Ma sì, diciamo che è una Roma inventata, in qualche modo resta un cordiale nella prima scena, quando appunto Riccardo esce dall'ospedale psichiatrico, tanto per non lasciare dubbi su quelle che possono essere un po' le sue intenzioni sotterranee, e si ritrova appunto al serpentone del cordiale e canta la canzone che poi è quella che abbiamo appena sentito, che è L'inverno del nostro scontento, proprio l'inizio classico della struttura del Riccardo III. E poi diciamo c'è una Roma che in realtà è una Roma nera, una Roma da fiaba nera, ecco. Non so quanto ci sia di realistico, nel senso di quanto si possa avvicinare in maniera realistica appunto al discorso Suburra, eccetera, però sicuramente c'è un'atmosfera che è quella di un nero, di un sotterraneo costante che pervade tutto il film. E del resto è una storia di droga, di malaffare, di faide intestine, e quindi, come dire, è chiaro e quasi automatico collegarsi a questo tipo di atmosfere che sono ritornate prepotentemente, diciamo, di moda cinematografica negli ultimi anni. Una cosa particolare volevo chiedertela sul lavoro che hai fatto sull'estetica di questo film. Tu già da Tano da morire ci avevi abituato a un'estetica che è molto debitrice della tradizione popolare del sud, no? Le luminarie, le luci di un certo tipo, e lo hai fatto anche in questo caso. Come costruisci l'identità estetica dei tuoi film? Ma io volevo fare un film in costume, diciamo, proprio un film in cui la storia classica del Riccardo III, quindi Shakespeare, periodo elisabettiano, palazzi enormi, regali, lampadari con gemme di cristallo, ori, eccetera, si mescolassero con invece una quotidianità. E quindi ho lavorato su questa sorta di ibridazione del contemporaneo con invece un'estetica assolutamente aristocratica. E anche nei costumi abbiamo fatto questo con Massimo Cantini, abbiamo lavorato su una sorta di passato principesco, passato aristocratico, che si mescola invece forse di più con una specie di attitudine alla David Bowie in qualche modo, no? Quindi un anni 70 rivisitato, tanti broccati, tantissime trine, tantissimi gioielli, tantissimi stemmi di famiglia con diamanti e con cose particolari. Mi piaceva davvero l'idea di essere appunto in questo mondo barocco, completamente pieno di segni. Vieni qui, mia piccola amica, dallo sguardo gentile, mio angelo perduto, dalle ali bagnate. Vieni da me, mio segreto amore, dalla pelle di luna, che ti possa aiutare a dimenticare. Abbiamo risentito ancora la voce di Massimo Ranieri, Roberta, perché la prossima domanda volevo fartela proprio sul lavoro che hai fatto con Massimo, perché al di là di quello appunto estetico, che l'hai travisato completamente, ma è proprio l'anima che da quelle rughe, da quegli occhi scavati viene fuori, che mi ha molto molto colpito. Cioè, ne hai fatto un vero e proprio personaggio shakespeariano. Com'è stato lavorare in questo senso con Massimo Ranieri, che chiaramente è un grandissimo professionista e a livello attoriale e a livello canoro, ma che, come dire, nell'immaginario della gente è una cosa abbastanza chiara, no? E tu invece l'hai totalmente mandato all'aria. Ma io pensavo che lui, come dire, amasse lavorare sul lato nero, sul lato dark, no? Perché comunque, come ogni grande artista, inevitabilmente è attratto anche lui dall'altra parte, dall'altra faccia della luna, e quindi ho trovato la sua massima collaborazione. Abbiamo proprio studiato insieme nei minimi dettagli il personaggio, a partire dall'idea, per esempio, di rasarlo a zero, che è stata la prima cosa su cui abbiamo lavorato, no? Pensavamo una pettinatura, qualcosa, e poi poco a poco è nata questa idea invece del calvo luciferino, no? Ci piaceva che fosse, e poi via via sulla postura, via via anche su questa dinamica di cattiveria e di amoralità, quindi anche Massimo si è calato in questo buio in qualche modo, e devo dire che insomma è stato un viaggio che abbiamo fatto davvero insieme, e lui è consapevole di questo e anche molto curioso di attraversare una nuova identità, quantomeno esterna, no? Poi chiaramente, però devo dirti che avendo un personaggio, un artista con tantissimo talento, è stato un bel viaggio, perché per un regista lavorare su un artista così pieno di possibilità è davvero una bella occasione. Ricordiamo la colonna sonora straordinaria di Mauro Pagani, le canzoni, i brani scritti da Mauro Pagani, che sono anche reperibili su una colonna sonora veramente di grande livello. Roberta Torre, Riccardo va all'inferno, la gente va dal cinema, sono ben 70 circa le sale che propongono questo film, non perdetelo perché è davvero una vera grande chicca del nostro cinema contemporaneo. Grazie Roberta per essere stata con noi. Grazie a voi. E allora andiamo a giocare ancora insieme, perché c'è la seconda traccia del film misterioso di oggi. Mi hanno detto che stavate venendo, che altri soldati del nord si sarebbero uniti a te qui. Uniti a me? Per sterminarci. E allora c'è un'umanità in pericolo, qualcuno che vuole sterminare qualcun altro, siamo in questa stagione cinematografica, io vi posso solo aggiungere che è un film figlio di una saga, direi quasi immortale, del cinema da fine anni 60 in poi, che sta rivivendo una nuova giovinezza negli ultimi anni. Se avete indovinato di che film si tratta, titolo, vostro indirizzo, la rosa purpurea @radio24.it, provate a vincere uno dei due Blu-ray che sveleremo fra poco, prima della fine di questa trasmissione. Andiamo avanti ancora sul cinema italiano, che come vedete è molto protagonista in questo fine settimana, per parlare del nuovo film di Francesca Comencini che si intitola Amori che non sanno stare al mondo. Ma se io non ho il credito nel telefono, no? I messaggi mi arrivano lo stesso? Boh, penso di sì. No, perché io ho mandato 28 messaggi da ieri, non hai ricevuto nessuna risposta. Sai qual è il tuo problema? Sentiamo, qual è il mio problema? Che non deponi mai le armi. In 5 anni di matrimonio, nemmeno un orgasmo. Ma adesso tutte così, dicono tutte che non vengono più. A me mi piace ancora tanto. Piacerebbe anche a me. Lo diceva sempre, ma non tappoggiare nei locali pubblici, non tappoggiare. Mi prenderò la malattia di qualcuno che scoppa tanto, magari. L'eterna difficoltà di stare al mondo, appunto, come dice il titolo, in una generazione che si avvia a essere quella di mezzo e che vive in maniera diversa una separazione. Chi, come la protagonista del film, non ne riesce a uscirne, chi invece, come il protagonista maschile Thomas Trabacchi, mentre la protagonista femminile è Lucia Mascino, invece ha proprio un'urgenza quasi di andare avanti nella vita. Uomini e donne, potremmo dire, come si usa fare nella commedia più amara di questi anni. Boris, una Francesca Comencini che sceglie di lavorare con un cast, diciamo, meno noto, di fare qualcosa che sta a cavallo fra il dramma e la commedia, no? Una dramedy, come si potrebbe dire, per raccontare appunto uno spaccato generazionale. È affascinante il tragitto che sta facendo Francesca Comencini, no? Da una parte il noir ferocissimo della serie TV di Gomorra, e dall'altra invece un'esplorazione, se vogliamo, della figura femminile oltre le generazioni, con un lavoro sul film di finzione che è molto diverso da quello a cui ci aveva abituato all'inizio, no? Penso allo Spazio Bianco, Un giorno speciale. E Amori che non sanno stare al mondo, devo dire, di questa regista, che a me ha sempre affascinato per il modo e per lo sguardo, per il modo di girare e per lo sguardo che ha, Non mi convince affatto, sono sincero. Ci sono tutti i difetti che normalmente Francesca Comencini non ha, una certa voglia di incasellare i protagonisti in degli stereotipi, Thomas Trabacchi nel tipico maschio anaffettivo che cerca di dominare la propria donna dall'alto di uno snobismo intellettuale di classe, e dall'altra parte Lucia Mascino che è una donna insomma che va forse verso una crisi di mezza età e che risponde con degli eccessi abbastanza grotteschi, da un femminismo di facciata fino a un isterismo nel cercare, nel volere a tutti i costi l'amore. E sembra davvero che sia l'uomo che la donna escano fuori non da una sceneggiatura ma più che altro da un'uscita fuori a pranzo, a cena o per prendere una birra di gruppi di uomini e gruppi di donne, cioè sembrano uscire fuori dagli stereotipi da bar di questi personaggi. E in più narrativamente il film non prende mai un abbrivio vero, non riesce mai a trovare la forza anche di appassionare a livello di intrattenimento lo spettatore. E se si pensa, adesso il finale per chi lo vedrà non lo svelerò, se si pensa diciamo alla strada che prende Lucia Mascino sembra quasi quella di un film erotico, cioè quello che quando insomma con gli uomini non va più bene allora mi rivolgo ad altro. Onestamente faccio una grossa fatica sia a livello di contenuti, sia a livello narrativo, sia a livello visivo di apprezzare questo film, soprattutto alla luce del fatto che c'è una regista così, che ci ha sempre invece abituato a un'elaborazione profonda dei personaggi e a un'originalità di visione che qui non riesco proprio a vedere. Boris, rimani con noi perché dopo Le Viabilità abbiamo un altro paio di film di cui parlare molto brevemente, ma insomma vogliamo segnalarveli tutti e due e poi abbiamo ancora da giocare insieme e da stare a sentire un po' gli amici di Film TV con tutte le proposte per il cinema da vedere in casa, da far poco. Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto. Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio 24 è in Digital Radio. La Rosa Purpurea. Eccoci qua, La Rosa Purpurea con altre due proposte in sala prima di passare alle visioni domestiche. Vogliamo raccontarvi un paio di alternative. Una è una commedia, una di quelle commedioni belle, grevi, no? Con tante situazioni molto spiritose. Si intitola Daddy's Home 2. È un sequel con Mark Wahlberg e Will Ferrell ancora protagonisti, con nei panni di due nonni, Mel Gibson e John Lithgow. Voglio il perfetto albero del Natale collettivo. Pensi non sappia usare una sega elettrica? Oh sì! Si taglia come il burro! Fred, quello non è! Cade! Fred, era un ripetitore. Credo che Brad sia morto di nuovo. Non andare nella luce! 70 milioni di dollari incassati negli Stati Uniti nelle prime due settimane. Boris, a chi proponiamo questo film? Ma Daddy's Home forse agli uomini con qualche problema con i propri padri, perché... si gioca sul primo capitolo, insomma, e su quanto i rapporti tra maschi adulti, che appunto in questo caso vediamo ancora di più con la presenza di un Mel Gibson davvero improbabile, però interessante. Forse ecco, lo consiglierei di più agli uomini. Come dicevi tu, è una commedia con toni anche grevi, senza essere volgari. È una commedia forte, diciamo, una commedia testosteronica, inevitabilmente abbastanza ben scritta. Certo, se avete visto il primo capitolo avete ben idea di che cosa avrete e quindi potete apprezzarlo o non apprezzarlo se non l'avete amato. Non è un film indimenticabile, ma ha il suo fascino soprattutto per gli interpreti che sanno rendere, diciamo, tra virgolette, credibili anche le scene più incredibili. E se invece al cinema dovete andarci con la famiglia e soprattutto con i bambini, c'è già il primo film ampiamente natalizio, si intitola infatti Gli Eroi del Natale. E dai ragazzi, Aspettatemi! Dovevamo girare a sinistra due deserti fa. Non posso credere che abbiamo superato l'ultima oasi. Ho sempre... Persi! Oh, questi sapientoni si sono persi! I saggi non si perdono, Felix. Vuoi dire che sanno dov'è questa festa di compleanno? Perché sei sicuro che sia una festa di compleanno? Ah, ci siamo. Hai visto i regali che stanno portando questi tizi? Oro, mirra, incenso... E insomma, gli eroi del Natale sono niente meno che quelli del presepe, gli animali che conosciamo, il bue, l'asinello, i tre cammelli che inseguono la cometa per questa festa di compleanno, che è quella che immaginate che cade ogni anno il 25 dicembre. Boris, segnali per dire che dagli Stati Uniti si cerca di rispondere chiaramente al predominio delle major anche in campo d'animazione. La Warner schiera quelli che sono delle icone vere e proprie anche appunto nei presepi di tutti noi. C'è anche qualcosa di estremamente interessante negli Eroi del Natale, perché c'è il tentativo, quasi blasfemo, ovviamente scherzo, di ammodernare una storia che insomma conosciamo tutti e che non molti hanno il coraggio di toccare. E come si fa a raccontare una storia che conoscono tutti e che non ha molta originalità ormai? Cambiando la visuale. L'unica visuale che non si era mai raccontata era effettivamente quella degli animali del presepe, cioè i tre cammelli che hanno portato i re magi, la pecora ribelle, Ruth, che se ne va in questo posto, insomma, perché scappa dal gregge, l'asinello che cerca riparo con un Giuseppe che non lo vuole perché già deve diventare padre di un figlio che non è suo, e ha una moglie piuttosto femminista, una teenager estremamente assertiva, e lui invece è nel pieno della crisi che prende insomma gli uomini moderni. È evidente quello che cercano di fare, cioè cercano di rendere ciò che è sacro un po' dissacrato. Devo dire che ci sono assolutamente riusciti, perché la storia di Gesù, Giuseppe e Maria la conoscono tutti, dai 3 anni ai 99, dal nipote al bisnonno. E quindi l'ironia, il divertimento, il cambio di caratterizzazione e appunto anche il virare sul grottesco riesce benissimo, perché non bisogna spiegare niente a nessuno. E sono stati bravi, l'idea è semplice, ma spesso le idee semplici sono quelle più geniali. Guardatemi, sono Maria e sono molto incinta! Io sono Giuseppe, sono di pessimo umore. Aspetta, quello dovrei essere io. Sì, decisamente. Oh no, guardate, arrivano i cani. Tocca a voi. Oh no, mi hanno preso. Se solo un certo asino mi avesse avvertito. C'è decisamente qualcosa di strano in questi animali. E questo è appunto gli Eroi del Natale. Grazie Boris, ci sentiamo la prossima settimana. Alla prossima settimana e buon cinema. Oh, ecco, siamo arrivati adesso al momento, dopo tanto cinema in sala, di dare un'occhiata intanto al film che non avete indovinato la scorsa settimana, che era questo. Ne avete altri in magazzino? Non ci sono più gallette in magazzino. Non ci sono più gallette in tutta West. E uno dei due dovrà affrontare la distruzione nucleare senza mangiare neanche una galletta. Ma insomma, i cinefili della Rosa Purpurea dove sono finiti? Non avete riconosciuto Matinée di Joe Dante? C'era tutta la storia delle gallette. È uscito recentemente con una nuova edizione, un video. Chiaramente è un film che troverete appunto nelle videoteche. Sarà sempre il caso di rivederlo, questo Matinée di Joe Dante, un grandissimo omaggio agli anni d'oro del cinema americano. Ma concentriamoci con Giulio San Giorgio di Film TV invece sulle segnalazioni dai palinsesti televisivi della prossima settimana. Abbiamo scelto un paio di chicche. La prima si intitola Mezzanotte nel giardino del bene e del male, un film forse più da riscoprire di Clint Eastwood del 1998, che va in onda su Paramount Channel alle 23:30 di domenica 3 dicembre. Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, è un film, come dire, anche di stretta attualità, nel senso che è ambientato durante le incombenti festività natalizie e ha come protagonista Kevin Spacey, quindi una persona che piano piano sta scomparendo dai nostri schermi per appunto le questioni legate alle molestie sessuali che l'hanno portato a essere censurato nei film come nel prossimo Ridley Scott. Siamo a Savannah, in Georgia, un giornalista viene invitato a casa di un miliardario per scrivere appunto un articolo sulla sua imminente festa di Natale, ma durante il ricevimento un giovane ubriaco viene ucciso da questo miliardario e il miliardario invoca la legittima difesa. Il miliardario è interpretato appunto da da Kevin Spacey. Il giornalista decide di fermarsi in città per scrivere un libro, e non più solo un reportage, ma l'atmosfera decadente di Savannah rischia di prendere il sopravvento. È uno dei titoli veramente più incompresi, complicati e secondo me migliori di Clint Eastwood, dove i personaggi sono proprio delle variabili umane, il protagonista è il contesto che rapisce letteralmente lo sguardo di Clint, un mondo imperfetto, sudista e perlustrato con grande curiosità antropologica, abbandono anche ad atmosfere fantastiche. E questo è l'appuntamento con Mezzanotte nel giardino del bene e del male su Paramount Channel alle 23.30 di domenica 3 dicembre. Il giorno dopo, lunedì 4, sempre alle 23.10, in seconda serata e sempre su Paramount Channel, un film di fantascienza che guarda caso è di un anno precedente a quello di Eastwood, del 97, si intitolava Starship Troopers, fanteria dello spazio, lo firmava Paul Verhoeven. Sì, siamo in un futuro non lontano e il nostro pianeta combatte una battaglia contro una razza aliena di insetti giganti rispondendo all'invasione di un gruppo di mormoni. Johnny Rico, terminato il liceo, decide di arruolarsi appunto nella fanteria dello spazio. Questa è la trama, il film è un inno al militarismo, una cavalcata tra Barbie e barbarie, un elogio all'imperialismo, sembra un film di propaganda, fatto di bollissimi modelli, decerebrati di plastica, armati e pronti a morire nel nome della patria. È tutto questo, ma è anche esattamente il suo opposto. C'è una parodia, una satira folle della retorica, del sogno e del cinema americano. Tutto insieme, difficile distinguere le cose. Un film vertiginoso e intelligentissimo, una versione acida e caricaturale della fantascienza degli anni 50, dove tutto è sempre molto più complesso di quello che sembra. A proposito di Mattine di Gio Dante, vedi che c'è qualcosa che si ricollega anche in questo caso. Giulio, grazie per il tuo aiuto, come sempre, a scegliere le cose migliori dai palinsesti televisivi. Ci risentiamo con la redazione di Film TV la prossima settimana. Alla prossima, ciao. E siamo giunti alla fine della nostra trasmissione, della nostra puntata di questa settimana. Non ci resta che il tempo di svelarvi il film misterioso di oggi. Si trattava di The War, il pianeta delle scimmie. Settimana prossima la recensione, i vincitori. Grazie per averci seguito. Un saluto da Franco D'Assisi.